Oggi parliamo di le rubriche di Eduradio per il carcere e la città. Sono Maria Luisa e la programma è sempre quello, Voci da dentro. Oggi però è una trasmissione particolare perché abbiamo diversi ospiti, persone a cui noi porremo domande sulla possibilità di lavorare in carcere in maniera molto proficua. I nostri ospiti sono Giovanni Spina, AVOC, Ignazio De Francesco, AVOC, che voi conoscerete benissimo, e poi abbiamo Ornella Favero, che si presenterà, vi anticipo che è una persona meravigliosa, una grandissima donna che si fa cura, che si è presa cura da 15 anni, forse di più, del lavoro carcerario a Padova. Quindi io adesso comincio facendo una domanda a Ornella. Ornella, noi volontari AVOC non siamo stati autorizzati a stabilire dei contatti diretti con i detenuti tramite piattaforme, Zoom, eccetera. Facciamo infatti delle registrazioni che poi mandiamo, ma è tutto in differita e quindi si perde un po' la genuinità dell'incontro che ancora si può salvare in parte, in grande parte, nell'incontro con persone in carne e ossa, seppure sia pure tramite un video. Ornella, voi cosa avete fatto? Noi abbiamo individuato da subito le videoconferenze, la possibilità di questo tipo di contatto come l'unica cosa buona, diciamo, portata dalla pandemia, sia per gli affetti che per le attività. Sappiamo perfettamente che non sono sostitutivi, che non vuol dire che insomma, fra un po' di tempo penseranno di sbatterci fuori dal carcere perché è più comodo così usare questi sistemi. Riteniamo che sono complementari e importantissimi perché nei momenti di difficoltà, ma anche nella vita normale detentiva, è uno strumento che se usato bene ti può dare delle possibilità in più. Voglio dire, la mia redazione di detenuti ha intervistato in videoconferenza persone come Fiammetta Borsellino, quindi voglio dire, puoi fare delle cose di grande qualità che non faresti neanche nella normalità, perché non è che queste persone vengono a Padova o Bologna ogni giorno. Quindi abbiamo fatto delle attività che sono di grande arricchimento grazie a questa modalità. Il carcere, allora io dico una cosa, primo, non ci sono, io credo proprio che non ci siano problemi di sicurezza, perché diciamocelo, questi mezzi anzi sono perfino troppo controllati, se dovessi dire un timore che ho. Quindi sì, problemi di sicurezza, viene registrato tutto, non esiste. Secondo, come rappresentante del volontariato, come presidente del volontariato nazionale nelle carceri e sul territorio, sono stata ho incontrato in presenza la ministra Marta Cartabia. Devo dire che fra i tanti temi trattati, abbiamo trattato anche questo dell'uso delle tecnologie, e ho subito messo le mani avanti dicendo: vi prego, non fate che appena si ristabilisce un po' di normalità le tecnologie vengono sbattute fuori, perché sia per gli affetti, e qui dico una cosa forte, se prima, cioè quando è stato comunicato ai detenuti che non potevano più vedere i loro familiari, erano state attivate subito le tecnologie, forse il disastro, le morti, forse si sarebbero potute evitare. Non mi piace parlare col senno di poi, ma già si capiva allora che era stato un errore fatale non comunicare questo in un momento di difficoltà e di disperazione. Quindi non devono più uscire, sia per gli affetti, ripeto, sia per le attività. So che ci sono fondi del DAP e in alcune carceri, a Padova l'hanno fatto senz'altro, stanno potenziando le linee, ma questa è una priorità, non un sacco di altre cose inutili, questa è una priorità, ripeto, per gli affetti, anche perché negli affetti, le persone, non è stata una cosa sostitutiva del colloquio. Ci sono persone che hanno fatto colloquio con familiari che non vedevano da anni, hanno rivisto i luoghi di casa, hanno parlato con madri anziane, malate. Quindi, voglio dire, è un tema forte che va mantenuto, ripeto, sia per gli affetti che per le possibilità in più alle attività, perché in carcere, in cui c'è una miseria molto spesso di offerta formativa, di attività così, poter fare delle attività come quella che ho detto io, interviste a persone importanti che sappiano dire una parola nuova, confronti con vittime di reato. Noi abbiamo fatto anche gli incontri con le scuole in videoconferenza, cioè la redazione ha incontrato alcune classi e vi dirò di più e chiudo. E abbiamo incontrato anche delle scuole di Reggio Calabria, perché nella mia redazione ci sono persone che appartenevano alla criminalità organizzata, all'ndrangheta, la mafia. Abbiamo avuto il sostegno della direzione e di un procuratore antimafia che aveva sentito le testimonianze dei detenuti dei detenuti calabresi e voleva portarle nelle scuole di Reggio. Abbiamo fatto già due incontri con queste scuole, portando testimonianze davvero di come è possibile il cambiamento di queste persone, come è possibile allontanarsi dalla realtà di cui facevano parte. Ecco, questo per me dovrebbe essere una battaglia comune del volontariato, perché per tenere dentro al carcere l'unica cosa buona portata dal Covid. Grazie Ornella. Chi vuole porre una domanda a Ornella? Io posso, posso intervenire? Sono Ignazio, sono un volontario carcerario a Bologna e sono tra i promotori, così, tra gli amici e amiche che hanno promosso il servizio di Eduradio e TV dall'aprile dello scorso anno, quindi ci troviamo veramente molto in linea con quello che dice Ornella. Io così vorrei farti una domanda di fondo, anche una domanda così un po' biografica. E come mai ti sei occupata di carcere? Qual è il significato nella tua vita e secondo te qual è il significato nella vita della città? Il carcere è un mondo separato, c'è un bel muro alto, così, quindi tutto dà l'idea che siamo su Marte, quando andiamo in carcere andiamo su Marte. E, in quale modo invece appunto interpella le vite di tutti noi il carcere? Guarda, io ho cominciato a occuparmi di carcere, faccio volontariato da 23 anni, che insegnavo, avevo... è stato un po' casuale, non è stata la scelta, la folgorazione, vado a fare volontariato in carcere, no. Cioè mia sorella insegnava nelle scuole medie del carcere di Padova, mi aveva chiamato a fare una lezione e siccome io sono giornalista, qualche detenuto mi aveva detto, ma guarda, noi non ci sentiamo rappresentati da quello che leggiamo sui giornali, eccetera, su di noi, perché non ci aiuti a fare qualcosa che ci rappresenti in modo diverso? Quindi lì è nato in questa maniera molto spontanea, diciamo, senza una grande scelta, vocazione, però poi la sfida è diventata subito quella di dire, beh, insomma, dal luogo dove le regole non le ha, ci sono quelli che le regole non le hanno mai rispettate, voglio provare a fare una informazione che invece le rispetti, un'informazione onesta nel luogo per eccellenza della disonestà, del mancato rispetto delle regole. Cioè voglio partire da questo. E quindi è nato un po' così. Poi nel rapporto con la città, guarda, l'esperienza di Padova ha una cosa straordinaria che noi cerchiamo di esportare in altre città. Noi abbiamo la grande scoperta è stata di fare un progetto che portasse le scuole dentro e portasse i detenuti nelle scuole, ma non la classica visita allo zoo, non parlare di quanto male si sta in carcere, perché non è così interessante. Cioè all'inizio anche noi parlavamo della vita del carcere, quando gli studenti venivano dentro in carcere, quanto male si stava, i detenuti un po' si lamentavano, un po'. Poi ci siamo resi conto che finché la gente, i ragazzi in particolare, restano convinti, ma sì, io sono una persona sensata, non mi succederà mai, non è così interessante. Invece, purtroppo, tutti noi che operiamo in carcere vediamo persone che mai avrebbero messo in conto di finire in carcere, ma smetto quando voglio, per esempio, sul tema della droga, è un classico, no? Sì, io uso qualche sostanza al fine settimana, ma niente di che, quando voglio smetto, non è così. Anche le persone detenute finite in carcere raccontano che pensavano smetto quando voglio con l'alcol, con la droga, eccetera. E quindi da lì il progetto l'abbiamo rivoluzionato, abbiamo detto dobbiamo partire dalle storie delle persone, da come si arriva a compiere il male, l'illegalità, da come si scivola, perché la gente fuori è convinta che il male sia sempre una scelta, no? Quindi sentendosi persona onesta, brava, dice, ma io non sceglierò mai, invece non è sempre una scelta il male, a volte è uno scivolamento in piccoli comportamenti che poi ti sfuggono fino a volte a situazioni tragiche, penso a tanti ragazzi che hanno commesso omicidi durante una rissa, in discoteca, eccetera, quindi sotto effetto dell'alcol o delle sostanze. Ecco, la cosa, questo è il concetto a cui io tengo di più, cioè il carcere può fare del bene alla comunità, può fare prevenzione, proprio portando le testimonianze delle persone detenute. A Padova non c'è una scuola praticamente che non faccia questo progetto e tutte le penultime classi lo fanno. Quindi tutte in questi anni le generazioni di giovani hanno fatto questo progetto a tal punto che ci arrivano a volte lettere, recentemente ci è arrivata una lettera, sono io 10 anni fa ho fatto con il liceo il vostro progetto, adesso mi sono laureata, sono insegnante, lo voglio riproporre alle mie classi. Quindi praticamente il carcere, le persone detenute, fanno un grande regalo alla comunità, perché non ci guadagnano niente a raccontare il peggio della loro vita. Io lo dico sempre ai ragazzi, guardate che vi stanno raccontando, pensate di mettervi voi a raccontare le cose che preferireste tenere un po' nascoste perché vi danno fastidio della vostra vita. Queste persone mettono in piazza la loro vita, sono identificati continuamente come quelli che hanno fatto le cose più orribili, ma lo mettono per... mettono il peggio a disposizione per farvi capire perché ci pensiate prima. Chiamiamo questo progetto un allenamento a pensarci prima. Ecco, quindi io penso che il carcere in tema di prevenzione possa fare un grande regalo alla comunità e la comunità deve apprezzare questo, deve apprezzarlo, perché raccontare il proprio male non è affatto facile, ma se lo racconti con lo scopo di evitare a qualcuno di quei ragazzi di cadere in quella trappola, è già una grande vittoria. Ecco, io credo che questo sia uno degli aspetti più interessanti. Io devo dire che questo passaggio del legame tra comunità e carcere lo sento veramente tanto, perché insomma, come sappiamo, è un legame che viene rotto nel momento del reato, ma che poi dovrebbe essere riallacciato secondo le istanze riabilitative, ma che invece il carcere non fa altro che approfondire. E da questo punto di vista noi come AVOC cerchiamo di, tramite i laboratori dentro, ma anche tramite la nostra azione fuori, di sensibilizzazione nelle scuole, cerchiamo un po' di riallacciare questo legame. E niente, come insomma anche come giovane partecipante dell'AVOC, volevo chiederti un po' dei consigli. Ci puoi dare dei consigli per il futuro, ma anche dei suggerimenti per far sì che la nostra azione sia sempre più incisiva e per cercare di unire appunto queste due realtà che sembrano tanto distanti? Sì, solo mi devi spiegare, cioè, quando uno ha tutti questi anni di esperienza come ho io, finisce che sono perfino troppe le cose che può dire o pensare. Quindi allora, se restiamo sul progetto con le scuole, io ho dei suggerimenti da dare, così, altrimenti ci sono anche altri temi che mi piacerebbe toccare da questo punto di vista. Sul progetto con le scuole dico una cosa, quando cioè il carcere, contrariamente a quello che si pensa, ha uno fra gli effetti peggiori è quello che una persona entra dentro, ha commesso un reato, quindi entra da colpevole, sì, tranne quelle situazioni che pure esistono di qualcuno condannato da innocente, ma comunque generalmente uno ha commesso un reato e è colpevole, dopodiché le condizioni di vita sono tali per cui scatta molto rapidamente un capovolgimento della situazione, uno comincia a sentirsi una vittima, anche a ragione per certi versi, perché se non vedi rispettati i tuoi diritti, hai questa miseria di possibilità di rapporti con la tua famiglia, che quasi nessun paese al mondo è così misera, proprio 6 ore al mese di colloquio e 10 minuti di telefonata a settimana. Hai una vita spesso in condizioni di illegalità, così. Quindi è ovvio che ti senti, che vieni preso tutto dai tuoi problemi di sopravvivenza e la responsabilità rispetto al reato quasi te la dimentichi. A noi ce ne siamo resi conto proprio con le scuole, quando i ragazzi sentivano queste storie pesanti, cominciavano a chiedergli: ma perché, come hai fatto a non pensarci prima? E non hai pensato al male che facevi, non solo alle vittime, ma anche ai tuoi figli, com'è che non ti sei fermato neppure per i tuoi figli o cose del genere, no? E lì abbiamo deciso che in questo progetto bisognava coinvolgere anche dei soggetti nuovi, ma non i soggetti, come dire, istituzionali, perché i poliziotti, i direttori, perché quelli li sentono sempre, i ragazzi nelle scuole, eccetera. E a quell'età niente è poco efficace quanto dire non fare questo, non fare quell'altro, se non serve a niente. No, volevamo delle voci forti, autentiche, che si affiancassero a quelle delle persone detenute. Quindi abbiamo coinvolto molte vittime di reato e anche familiari di persone detenute. E sono stati incontri molto belli e molto efficaci, perché quando una vittima di reato accetta di entrare in carcere, di venire insieme con persone detenute nelle scuole, eccetera, dà una grandissima lezione a quella società che è sempre pronta a dire, no? A prendere la parte della vittima, perché tutti noi facciamo presto, immaginiamo tutti di poter essere potenziali vittime, nessuno di noi pensa di poter essere potenziale carnefice, diciamo, autore di reato. Quindi questa disponibilità di tante, perché in questi anni sono state tante vittime, di affiancarsi a persone detenute portando la loro esperienza e dialogando con loro e con i loro figli, ha dato un grande stimolo a tutto questo progetto, perché non c'è più quella cosa di dire le vittime, anche a me chiedono tante volte i ragazzi, no, se fosse successo qualcosa a lei, a un suo familiare, cioè. Io rispondo sempre: guardate, io non so come avrei reagito, e non sto dicendo che avrei reagito nel modo giusto, però abbiamo incontrato tante vittime e ci hanno tutte raccontato che nutrirsi di odio non fa vivere bene, per cui è inutile che continuiamo a parlare delle vittime, sempre dando questa grande importanza all'odio e al rancore. Le vittime stesse, più consapevoli, ti dicono che l'odio rovina prima di tutto la persona che lo prova, non l'oggetto dell'odio. E quindi credo che questo sia stato, se io dovessi dare dei consigli, e tanto più adesso usando questi strumenti, direi di allargare assolutamente le testimonianze a persone che hanno subito reato e hanno voglia di dialogare, accettano di dialogare, perché come dice Agnese Moro, sì, queste persone vanno fermate, ma io le voglio fuori, e le voglio fuori diverse, le voglio fuori cambiate, che abbiano capito il male che ci hanno fatto, così. Ecco questo. E un'ultima cosa, anche l'esperienza con i figli, se volete, prossimamente, non so, si può fare un'intervista a una figlia che il papà che è stato in carcere a lungo, e lei racconta come ha vissuto, quante menzogne ha dovuto dire, quanto, insomma, a partire da quando sei a scuola e ti chiedono di scrivere cosa fa tuo padre, che lavoro fa tuo padre, e tu non sai cosa inventarti, allora tutti, cioè bugie su bugie, eccetera. E anche su questo questa questione ci interroga, perché siamo un paese che parla molto delle famiglie, ma in realtà le famiglie dei detenuti sono famiglie di serie Z, non c'è una vera organizzazione per dire la aiutare a dire la verità a questi figli, per assisterli, per accompagnarli, come c'è in altri paesi, mi viene in mente la Francia, per esempio. Ecco, quindi questo è il consiglio per quel tipo di progetto. Poi ci sono tante altre cose, ma ne possiamo parlare. Imparare a comunicare, questo lo dico ai volontari, perché guardate, non è per niente scontato. E i volontari molto spesso dicono: noi siamo quelli che facciamo le cose. In realtà il raccontare le cose non è meno importante, perché se noi non creiamo fuori una società più attenta, che sappia ascoltare, le persone poi ci devono rientrare e faranno una enorme fatica. Quindi noi dobbiamo imparare a rispettare le paure e a comunicare e portare le testimonianze, perché sono quelle che poi alla fine rompono il muro di fastidio, di paura. Insomma, credo che imparare a comunicare sia un altro tema importante del volontariato. Una volta vorrei provare io a porre una domanda, visto che sono certamente il meno esperto. Dunque, intanto, il tipo di volontariato che faccio io è molto particolare, quindi forse la mia domanda risulterà meno centrata di altre. Allora, io da più di 25 anni registro libri per i ciechi, per tutti quelli che non possono leggere autonomamente, con una struttura, il Centro Internazionale del Libro Parlato, che ha sede a Feltre e che è stato fondato circa 35 anni fa. Ad un certo punto mi è venuta l'idea, noi abbiamo circa 300 donatori di voce sparsi per tutta Italia, e siccome ho avuto una brevissima esperienza in carcere, perché una insegnante che conosceva l'esistenza del Centro del Libro Parlato mi ha chiesto se ero disponibile ad andare a vedere, eccetera. Io l'ho fatto, poi il tutto è finito in nulla, perché il loro più promettente allievo, che aveva dato la maturità, è stato trasferito, quindi il progetto che avevano in animo si è chiuso. Però a me è venuta l'idea che forse creare un gruppo di persone che registrano per i ciechi, gli ipovedenti, eccetera, in carcere, poteva avere una duplice funzione: quella di avere qualche libro in più per queste persone, ma non è quello il punto. Noi abbiamo tantissimi donatori di voce, quindi non avremmo bisogno. Ma mi sembrava che far sì che queste persone facessero qualche cosa per qualcun altro potesse anche essere una certa gratificazione per loro, oltre all'ovvio fatto che passare 23 ore chiuse in una cella deve essere terrificante, non avendo nulla da fare o quasi. Allora, guarda, tu fai una domanda che è fondamentale nel nostro paese, dico, non solo nelle carceri. A parte che vorrei fare un piccolo inciso, come si vivono le mancate risposte? Lo dico rispetto alle persone detenute. Io della vita detentiva trovo che la cosa più terribile sia questo, che le risposte non arrivano mai, fosse pure un rigetto di un permesso, una cosa, ma non arrivano mai. E l'attesa è sfibrante. Io ho un detenuto ero ergastolano ostativo, adesso con la nuova la presa di posizione, la sentenza della Corte Costituzionale, potrebbe accedere a un permesso. Gli ho detto: io non riesco più a chiedere niente, perché non riesco a far vivere alla mia famiglia e io stesso l'ansia di giorni, mesi, anni di attesa senza risposte. Questo è un inciso che trovo che uno dei temi più importanti del volontariato deve essere questo: le risposte devono arrivare, anche negative, ma devono arrivare in tempi civili, perché in carcere poi è ancora peggio che fuori attendere, sei schiavo dell'attesa. Detto questo, oggi noi abbiamo uno strumento in più, cioè, mi spiego, il codice del terzo settore, che è stato fatto nel 2017, adesso sono uscite le linee guida, dice una cosa ben precisa, dice che le amministrazioni pubbliche, gli enti locali devono trattare alla pari con il terzo settore e devono fare la coprogrammazione e la coprogettazione con il terzo settore. Cioè la mancata risposta a una nostra presentazione di progetti non può più esistere, non può più esistere. Possiamo, e infatti io come volontariato mi ripropongo, ne ho parlato anche alla ministra Cartabia di questo, e mi ripropongo di fare una specie di interpretazione, cioè di spiegazione nostra di questa cosa, di quanto oggi l'amministrazione sia tenuta a consultarci su un piano e a lavorare con noi, coprogettare, su un piano di assoluta parità. Non siamo la ruota di scorta dell'amministrazione, non siamo ospiti, lo dico sempre ai volontari, noi non siamo ospiti, siamo una parte determinante, quella che l'articolo 17 chiama la società civile che entra in carcere e partecipa alla rieducazione, ai percorsi di reinserimento, chiamiamoli. Quindi questa è un'arma in più che abbiamo da poco. E devo dire che una cosa che mi ha colpito è che la ministra è rimasta, come dire, meravigliata che noi non fossimo considerati dall'amministrazione, dal DAP, da parte dell'amministrazione un interlocutore privilegiato. Cioè non ci credeva quasi. Io ho detto, guardi che purtroppo è spesso così. Noi non leggiamo, non ci mandano i progetti di istituto. Noi non siamo... Cioè, una commissione per fare il regolamento interno, per esempio a Padova lo stanno facendo ora, partecipano tutti fuorché il volontariato, che poi è quello sulla cui pelle viene fatto il regolamento, perché le ore che vengono fatte, le ore sempre troppo poche in cui si possono fare attività, il fatto che coincidano i pochi spazi, la logica, quella che io chiamo dei progettifici, cioè di accettare un sacco di progettini che durano la stagione di un finanziamento e poi scompaiono invece di programmare attività, perché in carcere c'è bisogno di attività che durino. Oggi parliamo di le rubriche di Eduradio per il carcere e la città.